I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Il dato sulle immatricolazioni auto in Italia, diffuso ieri in serata, è positivo sotto vari aspetti. Innanzitutto, dal punto di vista numerico, il 27,3% in più di immatricolazioni significa il dato migliore come vendite dal marzo del 2011. Gli esperti spiegano che in un settore pesantemente colpito da almeno 3 anni e mezzo da un calo brusco delle immatricolazioni è stato decisivo un cocktail esplosivo di fattori. Da un lato sono riapparse le domande di sostituzione, chi cambia l'auto perché cerca un modello più recente, ferme in questi anni per paura della situazione economica e delle sue prospettive. Poi però ci sono stati fortissimi incentivi dal chilometro zero, ma non solo, dei concessionari e delle case automobilistiche che non hanno lesinato sulle promozioni. E questi due elementi hanno premiato poi nello specifico soprattutto il gruppo Fiat Chrysler, che registra una crescita superiore alla media, più 32%, un dato record dal 2006 che riguarda tutti i marchi del gruppo, sia la Jeep più 50% che Fiat più 33%, Lancia più 30% e Alfa Romeo più 8%. Elemento ancora più significativo, nelle prime 10 auto per immatricolazione in Italia i primi 4 posti sono occupati da modelli Fiat, Panda, Y, 500L e 500, e comunque Fiat Chrysler si aggiudica 6 delle 10 posizioni della top 10. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Ieri l'Istat ha confermato che la pressione fiscale nel 2015 si è un po' ridotta al 43,3% del PIL, ma è evidente che non può bastare un piccolo miglioramento per rovesciare la percezione che tutti hanno di essere letteralmente tartassati dal fisco. Forse anche per questo oggi il ministro dell'economia Padoan è tornato a ripetere che il taglio delle tasse continua a essere uno dei capisaldi della strategia economica del governo. Padoan però è stato anche molto chiaro rispetto all'ipotesi circolata nei giorni scorsi di anticipare alcuni interventi, perché ha detto i tagli devono essere credibili e sostenibili, altrimenti non si trasmette il segnale che le imposte vengono ridotte in modo definitivo. Ma allora a questo punto che cosa ci dobbiamo aspettare? Quali interventi avremo l'anno prossimo? Beh, avremo un alleggerimento che riguarderà le imprese con il taglio di 4 punti dell'aliquota dell'IRES, l'imposta sulle società, taglio che, ricordiamolo, è già previsto nella legge di stabilità di quest'anno. Inoltre nel taglio delle tasse va compresa anche l'eliminazione della clausola di salvaguardia per il 2017, che se scattasse comporterebbe un aumento secco dell'IVA. È il meccanismo per cui se non si dovessero raggiungere gli obiettivi dei tagli di spesa aumenterebbero automaticamente le aliquote dell'IVA. La buona notizia, o almeno così speriamo, è che i conti pubblici sono sotto controllo, per cui, garantisce Padoan, le clausole di salvaguardia il prossimo anno non scatteranno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.